Radio 24 Reportage. Je suis Charlie, tout le monde Charlie. Dopo i sanguinosi fatti di Parigi, la satira, che di solito divide, è riuscita a unire milioni di persone. Una sorta di miracolo che ha aperto subito un dibattito sulla vitalità di uno strumento espressivo di non facile lettura e quasi mai gradito al potere. Anche se oggi, pur con qualche distinguo, sembrano tutti dalla parte di chi fa le pulci ai potenti. Ma ci sono dei limiti alla satira, e quali? Anche Papa Bergoglio scende in campo dicendo che se non si può uccidere in nome di Dio, non si può nemmeno deridere la fede altrui. Insomma, la matassa è ad alta tensione. Carlo Amatetti, fondatore di Sagoma Editore, parte proprio dai fatti di Parigi. Allora, teniamo conto di questo, che qui ci è scappato il morto, ok? E di fronte a queste cose è facile sapersi unire. Se poi andiamo a vedere, se andiamo a scandagliare chi componeva la folla che ha fatto appunto la dimostrazione parigina, andiamo a vedere tutta una serie di capi di stati, di politici eccetera, che hanno fatto dell'ostacolo alla satira un po' un'attività tradizionale della loro azione. Quindi bisogna un attimo distinguere appunto ciò che evidentemente è sincero, ovviamente la condanna a un omicidio, e ciò che non lo è, cioè che adesso tutti quanti siamo diventati difensori della satira, soprattutto quella di Charlie Hebdo, che non se l'era affilata mai nessuno ed era sempre stata sistematicamente condannata, ed è ben più corrosiva di ciò che ad esempio in Italia è e che è stato condannato ugualmente senza nessunissimo problema e che continuerà a essere condannata. La satira qui in Italia è morta, quindi non è che è stata risuscitata dopo l'eccidio parigino, sempre lì siamo, non ci siamo mossi di un millimetro. Cioè, intendi dire insomma che i potenti per un attimo così, tutti assieme, tutti quanti, poi però quando a casa nostra vengono pizzicate certe corde, allora poi la musica è diversa. Ma sì, perché teniamo conto che basta pochissimo per alterare i nostri governanti, cioè se avessero subito attacchi paragonabili a quelli che Charlie Hebdo ha fatto a chiunque sostanzialmente, in Italia avrebbe già chiuso ma da tempi in memory, ok? Cioè non c'è dubbio al riguardo, non c'è dubbio. E nella stessa Francia abbiamo visto che pochi giorni dopo è stato messo in galera Diedonè, che ha sempre fatto scalpore, è sempre discutibile tutto quello che vuoi, ma alla fine per un post tutto sommato, capito, non clamoroso. Ma quali sono questi famosi limiti? Lo chiediamo a Diego Bianchi, conduttore di Gazebo. Ma il problema dei limiti, diciamo, in teoria chi fa satira, ognuno ha i propri limiti, no? C'è chi pensa che un certo limite non si possa, se io penso che un limite non si possa superare, magari tu pensi che si possa superare, abbiamo più o meno tutte e due il diritto di superarlo o non superarlo. Che il Papa ha detto che se tu offendi mia madre ti tiro un pugno, c'è da aspettarsi un pugno, una cosa del genere. Allora questa è una frase che se la dice uno per strada diciamo, è comprensibile, se la dice il Papa fa un po' impressione, perché io non ho fatto neanche la comunione, ma so che di solito insomma si dice porgi l'altra guancia, ora che sia tua madre, tuo padre, un amico. La differenza questo insomma non dovrebbe esserci, ecco, è abbastanza inquietante, ma soprattutto a pochi giorni da tutto ciò che già ci sia. Questa insomma la vedo come una specie di virata, ecco, già vuol dire mettere dei limiti chiari, ecco, insomma, no? E ci può essere una forma di autocensura su quello che uno è consapevole di quello che si può fare o non può fare, anche qui torno soprattutto a parlare dell'Italia, no? E quindi uno può decidere di superare quel limite nel momento in cui ne vale davvero la pena, ecco. Torniamo un attimo su Papa Bergoglio e risentiamo la sua frase sull'opportunità di non deridere la fede altrui. È vero che non si può reagire violentamente, ma se il dottor Gasparri, grande amico, mi dice una parolaccia contro la mia mamma, ma gli aspetta un pugno, ma è normale. Non si può provocare, non si può insultare la fede degli altri. Papa Bergoglio, rispetto ad altri pontefici, è stato meno bersagliato dalla satira. Sentiamo Lia Celli, scrittrice irriverente e freccia mai pentita della satira italiana. Lia, una frase forte quella di Papa Francesco. È una frase un po' fatta che però paradossalmente da un certo punto di vista lo rende quasi più simpatico e umano, perché io credo che in questa frase un po' dai, è un po' da film anni 50, no? Da povero ma bello, viene più che il Papa viene fuori l'italiano che c'è, cioè noi sappiamo che Papa Bergoglio è appunto di origini italiane e ora sua madre è la Santa Madre Chiesa, e certo chi offende la mamma per noi italiani che siamo dei mammoni inveterati ci tocca proprio nei precordi, insomma penso che ecco più che il pontefice portatore del verbo che dice porgi l'altra guancia, ci sia proprio un sanguigno italiano che ha fatto parlare il cuore, ecco. Indulgente anche Carlo Amatetti. Ma io in realtà tutto questo problema non l'ho visto e ovviamente parlo io, quindi dovrei essere tra i primi a scandalizzarmi. Io rimango sempre fermo che la censura è la più grave delle bestemmie da questo punto di vista, però teniamo conto che ha parlato il Papa, ora non è né Wojtylaccio né Papa Ratzinger, come dire, ci si sono ammorbiditi molto i toni, questo è il Papa buono, tutto bene, oh, ma è sempre un Papa, non è che abbiamo messo lì un capo comico. Cosa ci si aspettava che dicesse? Cioè io quello che mi... cioè non è certo da un Papa che mi aspetto, peraltro ha detto anche cose tutto sommato che se si vuole essere cattivi si dà un'interpretazione cattiva, ma non credo che mio nonno, tuo nonno, ma anche mio papà avrebbe detto cose diverse, cioè quello anche che dico con mio figlio, dice guarda adesso questa cosa un po' più grande, con quello un po' più grande, ci siamo detti questa cosa, però magari non dirla a scuola questa. Ma torniamo ai fatti di Parigi e allo stato di salute della satira, in particolare quella italiana, ancora Lia Celli. Diciamo che il modo migliore per onorare la satira e anche la memoria di Boninsky e delle altre vittime della strage di Parigi è veramente dedicare quel mezzo secondo in più quando leggiamo la battuta cattiva, la battuta antipatica. Penso che sia veramente un esercizio utile, perché da un certo punto di vista anche in Italia si è persa un po' l'abitudine alla satira, come quella veicolata, diciamo così, dai grandi giornali, insomma, da quello da cui ho lavorato io, Cuore, ma Il Male, Tango, che avevano un po' insegnato al grande pubblico ad apprezzare la vignetta e la battuta. Perché com'è la situazione adesso? La situazione è che il vecchio nemico della satira, che era il potere, non è più un nemico, cioè la pressa a volte la valorizza, anzi a volte se ne sente addirittura lusingato. La satira non deve più temere appunto il potere, ma il lettore che si incazza. Ed è più difficile perché il potere è prevedibile nelle sue reazioni. Il lettore invece no, può venire a aspettarti sotto casa, puoi famarti in rete, queste sono le cose più lievi, insomma, c'è una disabitudine all'umorismo in genere, perché viviamo tempi cupi e tutti i media ci invitano ad avere paura, a temere il nemico dietro ogni angolo. È quasi diventata una specie di droga la paura, e chi cerca di uscirne anche in una maniera irriverente, anche appunto provocatoria e inaspettata, viene visto come un matto, un irragionevole, uno che non rispetta le cose più sacre. Fare satira, insomma, è un mestiere difficile anche in Italia. Non si muore, ma si viene oscurati. Dario Vergassola, un esperto in battute al vetriolo. Però anche politicamente, ti dico, si è provato a fare della satira anche la sinistra, che adesso fanno quelli che vanno a Parigi, la sinistra italiana, però appena c'è stata la possibilità di fare qualcosa sulla Boschi, che non era niente, era l'acqua di rosa anche la Boschi, levata di scudi da parte della sinistra, che la Boschi brava una cosa contro le donne di qua di là, insieme alla stupidaggine, quindi come vedi ognuno tira l'acqua al suo mulino, ma Berlusconi era difficile ormai, perché su cui Berlusconi andava talmente oltre, cioè superava la satira di sé, cioè faceva delle cose talmente assurde lui da solo, che era un problema, cioè diventava difficile stare quasi dietro, capito? Cioè, tutto quello che ha fatto diventa veramente complicato. Ora come ora c'è stato veramente un raffreddamento, cioè gli editi bulgari ci sono, solo una volta ci ricordiamo quello di Dario Fo, ci ricordiamo queste cose qua, però cioè, con Berlusconi ha proprio chiuso programmi, malato io la gente, ma soprattutto La differenza è che era proprio stato dichiarato ai giornali. E concludiamo con un autore teatrale che fa anche il comico, ma non ama la satira, Natalino Balasso. A questo punto non posso, come dire, tirarmi indietro da quello che ho sempre detto, cioè a me non piace la satira. Non perché mi diano fastidio i contenuti, anzi li trovo in Italia, soprattutto li trovo piuttosto scialbi i contenuti della satira, ma proprio perché come mezzo di espressione artistica non ha un grosso senso di esistere. La satira aveva un senso nei giorni di ribaltamento dei ruoli, quelle feste appunto di satira in cui i servi diventavano padroni per un giorno e comandavano i loro padroni, in cui si recitavano commedie che parlavano male del potere costituito. Oggi in una democrazia, allora, o si dice che non c'è la democrazia, quindi dobbiamo ammettere questo, e allora avrebbe un senso fare satira contro i potenti. Oppure se c'è la democrazia dobbiamo ammettere che i nostri potenti somigliano terribilmente a noi, quindi forse è contro noi stessi che dovremmo rivolgere la nostra satira. Mentre quello che vedo che si fa in Italia è sbeffeggiare i politici. Ho sentito fare una battuta sui delfini che sono più intelligenti di Renzi, cioè voglio dire, se tu dici che il politico non è intelligente non mi sembra che hai fatto satira, insomma non sei andato a colpire un ganglo vitale del potere, sei colluso. La satira credo non abbia un gran senso di esistere. Ed è tutto per questo speciale sulla satira, ancora un saluto da Dario Ceccarelli. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.